ancora a programma subisce una variazione in questo senso, che il professor Manganaro non ha potuto essere presente di persona come aveva programmato e come aveva in programma, e il programma adempiuto fin quasi all'ultimo, tant'è che ha mandato la sua relazione. Non so se sia stata distribuita con il materiale, e comunque mi è stato detto di far presente il contenuto di questa relazione molto brevemente. Non voglio correre il rischio di interpretarla male, e quindi sarò breve. Dico non voglio correre il rischio di interpretarla male, non solo perché è una, direi, normale cautela quella di nutrire timori di questo genere, ma anche perché la tesi che sostiene il collega ed amico Manganaro in questa relazione, che io ho letto ieri sera, è una tesi certamente peculiare e in qualche misura anche provocante, se non provocatoria. Cioè, dopo aver affermato come il male radicale, affermato e argomentato come il tema del male radicale rappresenti un elemento costitutivo del discorso kantiano sulla teodicea, Manganaro nella sua relazione mostra come la tematizzazione del male radicale porti Kant sul terreno dell'antropologia, all'elaborazione di un'antropologia, il che direi è del tutto evidente se si pensa all'apertura, alle pagine iniziali della religione entro i limiti della sola ragione. Ma da queste affermazioni Manganaro compie un passo successivo che mi sembra quello più caratterizzante dello spirito della sua relazione, dicendo che Kant vorrebbe districarsi dalla contraddizione antropologica in cui appunto l'antropologia è gettata dall'esistenza di fatto del male, per spostare questa contraddizione sul piano speculativo. Ecco, se io non ho interpretato male il paper di Manganaro, questo è proprio il punto nevralgico della questione. Manganaro afferma, pagina 4, la contraddizione non sta qui nell'uomo. E infatti il vero sconquasso del male radicale è altrove. Il male, dice più avanti, è della ragione. Ecco, questo mi sembra la tesi che caratterizza questo scritto. Possiamo soltanto dispiacerci molto, e direi aggiuntivamente per il fatto che il collega Manganaro non è qui, perché certamente una tesi di questo genere avrebbe potuto essere oggetto di discussione feconda oltre che animata.